Eccoci con Francesco Villano, il bello di La Diretta, l'ho appena chiamato per questa proposta perché sta per andare in scena materiali per Edeyen alle Carrozzerie Not dal 28 al 30 di settembre, quindi questa settimana. Allora Francesco, intanto ben ritrovato. Grazie, grazie, ben ritrovati a voi. E poi dici tutto tu. Ah sì sì, vabbè, insomma noi stiamo debuttando con uno studio in realtà, quindi non è tutto il testo, è parte del testo, è un primo step di lavoro che abbiamo, insomma, presentiamo qui a Roma. Di Edeyen, che è un testo di Letizia Russo ed è la storia di molto simbolica, insomma, per il momento che stiamo attraversando, di un gruppo di persone che scappa da un terremoto e si perde in un deserto. Insomma, non vi spoilero, non vi dico il finale, però insomma abbiamo lavorato su che cos'era per noi adesso, in questo momento, il concetto di deserto. Insomma, abbiamo cercato una traduzione teatrale di questa parola e insomma siamo contenti perché insomma credo sia riuscito un lavoro che ci permette di riflettere appunto su questa parola. Senti, attori e attrici in scena quanti sono? Ah, siamo la metà di 1000, sono per le produzioni insomma di questi periodi sono in 6. Sono Arianna Pozzoli, Bernardo Casertano, Elisa Gallucci, Gabriele Guerra, Noemi Francesca e Irene Maiorino. Il progetto di regia è mio, assistenti Betta Carosio, Lorenzo Fochesato, Erika Galante. E poi insomma ci sono tanti altri collaboratori. Insomma, è per essere un progetto che nasce come indipendente siamo tanti, è bello perché ultimamente si vedono sempre cose in due, in tre, da soli, perché adesso insomma un po' si è costretti a lavorare in pochi e invece siamo un bel gruppo. Sì, sì. Senti Francesco, dopo questo primo passo alle Carrozzerie Not farà un percorso questo lavoro? Beh, lo deve fare visto il lavoro che ha tirato fuori. Sì sì, farà un percorso ovviamente nascendo come progetto indipendente. Noi siamo stati in una residenza produttiva qui di questo bellissimo spazio romano. È stato un progetto indipendente, adesso insomma inizia la fase vera e propria di produzione, dove ci saranno un periodo ancora di prove e poi andremo in scena, inizieremo a presentarlo quest'estate a dei festival e poi nella stagione prossima nella versione definitiva. Senti, come secondo te si può fare questa idea che ci siamo scambiati qualche giorno fa di portarlo qui in radio martedì prossimo? Bene, in diretta. Sarà possibile secondo te? Come la vedi? Ribadisco, siamo veramente tanti, quindi dobbiamo accordarci tutti per venire in radio, perché appunto dobbiamo capire se tutti gli attori, perché noi definiamo sabato questa prima presentazione, quindi però se viene registrato è ancora più semplice, insomma possiamo pensarci. Sì, possiamo esatto, però insomma ti farò sapere. Vabbè. Ovviamente da parte nostra c'è la voglia di farlo sentire, anche se come tutti insomma i lavori che sto facendo, sto iniziando a fare, è anche molto legato all'immagine, al corpo. Ah beh, sì, certo. È difficile portare in radio. Va bene, allora ricordiamolo, dal 28 al 30, quindi questo fine settimana, Carrozzerie Not, materiali per Edeyen. Un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, un abbraccio a voi e ciao. Ciao.